Radio 24 Reportage. Dai ceci alla birra, dalla vite al caffè. Viaggio sulle strade del gusto di Andrea Ferro. Nella globalizzazione del gusto ci sono sentinelle a guardia di una tradizione che non è solo una questione alimentare, ma una ricchezza impastata di storia e di geografia, l'essenza propria di un'identità. Guardiani di sapori naturali, tramandati nelle epoche dall'ostinazione di preservare tipicità inimitabili, guardiani di produzioni fortemente legate ai territori, argini sparsi erette di fronte al dilagare del mangiar male, del mangiar tutti uguale, del profitto famelico che sofistica, elabora, mischia e annulla gli ingredienti naturali di diete millenarie. È una forma di resistenza che trae unione e forza dal marchio di slow food in Italia e nel mondo. È l'espressione viva di una cultura che rispetta il pianeta, che promuove la biodiversità e un'agricoltura equa e sostenibile, facendo conoscere prodotti e produttori all'interno di circuiti sempre più allargati. Per raccontare queste sentinelle schierate a difesa di un patrimonio collettivo, ecco quattro storie, storie italiane di terra, sacrificio, volontà, storie di territori bellissimi, generosi e impegnativi, storie di uomini e di donne, giovani e meno giovani. Partiamo da una donna e da una provincia che è nel cuore d'Italia, la provincia di Rieti, dove il terremoto ha colpito, distrutto ma non abbattuto, una razza forte che non si arrende, che è abituata a rialzarsi. Emanuela Laurenzi è la titolare del birrificio Alta Quota di Città Reale. Birra Alta Quota nasce nel 2010, quindi abbiamo festeggiato quest'anno a marzo i 7 anni di attività. Nasce come laboratorio sperimentale di birra, inizialmente poteva considerarsi quasi un hobby, poi invece è diventata proprio l'attività di famiglia. L'idea è stata di mio marito, il pazzo di casa è lui, che ha deciso tutto un tratto di creare qualcosa di suo, di mollare tutto quanto e di creare un'azienda che potesse darti a fine giornata, no, la soddisfazione di dire ho dei risultati tangibili in mano. Quindi dalla produzione iniziale di un laboratorio si va subito al Salone del Gusto di Torino, sempre tramite Slow Food, era il 2010, grande successo con la prima birra che era la Principessa, e a quel punto la decisione proprio di dire vabbè, si può andare avanti, no, ce l'abbiamo fatta, continuiamo. Effettivamente l'esperienza sta continuando, le birre adesso da una sono diventate 13, alcune con tipiche, possiamo definirle così perché ci piace caratterizzare il nostro prodotto con il territorio, perché presumiamo che l'agroalimentare possa essere quel settore trainante, no, anche a livello turistico per il territorio, e quindi in alcune birre viene aggiunto il farro perché è una produzione tipica della nostra zona, perché noi siamo in provincia di Rieti nel Lazio, ma in quella zona della provincia che si incunea tra l'Umbria e le Marche, siamo proprio al confine con la provincia di Perugia, è a meno di 10 km da noi, siamo veramente lì. Dal cuore d'Italia scendiamo verso sud e svoltiamo in Puglia per assaporare metaforicamente il gusto di due tipicità: la cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti e il cece nero della Murgia Classica. Per favorirne la produzione è nato un consorzio. Vito Abruci ne è il presidente. La cipolla rossa è un prodotto identitario del nostro territorio, è prodotto a valle della Murgia sia barese che altamurana, quindi terreni profondi, sottili, idonei proprio per coltivare questo bulbo che è di colore rosso, molto dolce e piatto. In conversione coltiviamo il cece nero proprio per azotare il terreno, per cui abbiamo un anno produzione di cipolla rossa di Acquaviva, da un anno abbiamo produzione di cece nero della Murgia Classica. Siamo stati adottati da Slow Food nell'anno 2002, quindi il primo presidio nasce nel 2004, il cece nero invece abbiamo recuperato questa cultivar dei contadini di una ricerca con una scuola elementare e con un centro polivalente per anziani, è diventato presidio nel 2012. Per dare seguito e quindi remunerabilità ai contadini, dalla cipolla rossa è venuto fuori lo sponzale rosso di Acquaviva. Lo sponzale rosso è il germoglio della cipolla, anziché essere piatto è dello stesso colore, dello stesso profumo, della stessa dolcezza, però è lungo come se fosse un porro, un cipollotto, diciamo. diciamo, del settentrione. Dove arrivano poi queste cipolle? Queste cipolle arrivano un po' in tutta Italia, anche fuori Italia. Infatti abbiamo accordi commerciali sia con la grande distribuzione di qualità ma anche con altri, diciamo, centri di distribuzione, ma c'è anche l'alleanza dei chef di Slow Food che utilizzano questi prodotti perché veramente sono squisiti, sono unici. Qual è la caratteristica? La caratteristica della cipolla è molto dolce, è determinata, però è dolce, non ti fa piangere, o se ti fa piangere molto poco. Mantiene la forza del sapore senza effetti collaterali, diciamo così. Effetti collaterali. Infatti è utilizzata anche sotto l'aspetto, diciamo, come dire, salutistico, perché è molto diuretica, addirittura è digeribilissima, e cura anche le acne. Mentre il cece nero è un legume molto molto leggero, addirittura consigliato alle partorienti da noi in Puglia, perché in contemporanea ti rimette a posto tutto il sistema, diciamo, e ancor di più ti dà energia perché è ricco di ferro e di fibre. Lo sponzale lo produciamo invece interrando il bulbo della cipolla verso la fine di agosto e i primi di settembre. Poi con le prime acque, con le temperature rigide, per dicembre-gennaio è pronto, diciamo, questo sponzale, questo cipollotto, che è dello stesso colore. Dalle cipolle e dai ceci al caffè. Per seguire questa strada del gusto risaliamo la penisola e arriviamo in provincia di Bergamo, più precisamente a Fornovo San Giovanni. Lì ha sede Art Caffè. Uno dei soci, Vittorio Veltroni, ci racconta la sua avventura. È un'avventura molto bella perché combina le due anime storiche della produzione del cibo e della modernità, nel senso che noi siamo tre soci che vengono dal digitale, che hanno acquisito la maggioranza di una vecchia torrefazione artigianale, preservando il lavoro degli artigiani dentro e dandogli una nuova dimensione grazie al marketing e alla tecnologia digitale sul livello internazionale. Quindi voi parlate già con il mondo? Noi parliamo già con il mondo, soprattutto per fortuna per adesso il mondo parla con noi e questo è un grosso passo avanti. Qual è la caratteristica della vostra produzione? Beh, noi facciamo tre cose diversamente dagli altri. Allora, noi intanto cerchiamo di avere tutto caffè che abbia qualche forma di certificazione che ci rassicuri A, della sua qualità organolettica e B, della, diciamo, integrità della filiera di raccolta e produzione, perché purtroppo il caffè, come tutti sappiamo, nasce in aree del mondo non particolarmente tranquille e molto spesso si rischia poi di finanziare realtà non particolarmente benevole. Quindi noi lavoriamo molto con Slow Food e con altri importatori e direttamente con produttori di cui siamo 100% sicuri. Importiamo il caffè a Bergamo, lo tostiamo appunto con la nostra macchina e con la sapienza artigianale dei nostri due artigiani che sono lì, che fanno finalmente il lavoro che gli piace, cioè tostare. Lo impacchettiamo a mano in pacchetti che abbiamo disegnato noi stessi, che mettono insieme tecnologia e tradizione, e poi lo esportiamo e lo vendiamo anche in Italia e in tutto il mondo. In sintesi, le previsioni? Le previsioni sono che il consumo del caffè migliora, che finalmente anche gli italiani hanno imparato che non si beve solo l'espresso, ma che il caffè è una bevanda che ha tanti modi di essere estratta, e siamo anche abbastanza sicuri che questa attenzione per la qualità continuerà e non è un trend passeggero. Riscendiamo verso il centro d'Italia, raggiungiamo l'Abruzzo e puntiamo la provincia di Teramo. A Bisenti, tra le montagne, Francesca Valente ha investito passione, energia e coraggio nella coltivazione della vite e quindi nella produzione di un vino e di una originalità che non doveva andare perduta. Il nostro progetto aziendale è partito dal recupero e la salvaguardia di questo vitigno autoctono, l'ultimo vitigno autoctono da riscoprire in Abruzzo, che è il Montonico. Questo vitigno era quasi scomparso, siamo ripartiti quindi da zero, dal reimpianto dei vigneti. Nel 2014 abbiamo impiantato i nostri primi 3 ettari e nel 2016 abbiamo ottenuto la nostra prima produzione di vino. Quest'anno implementiamo, diciamo, la produzione con la spumantizzazione. Non è solo vino, la nostra azienda è anche recupero le tradizioni intorno a quest'uva nelle aree interne e quindi tutti quei prodottini enogastronomici satelliti che giravano intorno a quest'uva, quindi confettura, mosto cotto, aceto, stiamo sperimentando la genziana, cerchiamo di metterci del nostro, ma di recuperare il grosso di quello che già c'era. Mercato interno, mercato internazionale? Al momento solo mercato interno, perché stiamo crescendo, quindi i numeri, diciamo, sono ancora limitati. Stiamo guardando già fuori, però siamo sicuri di poter trovare in tutto il mondo persone interessate a questi prodotti particolari di nicchia e che hanno una storia alle spalle così, così ricca. Parlare con voi così dà una carica di ottimismo. Noi ci crediamo molto. Crediamo nel progetto, crediamo nella biodiversità, crediamo nel recupero dell'artigianalità di coloro che ci hanno preceduto, crediamo nei territori che ancora sono inesplorati, che in questo momento subiscono un po' di abbandono e sono... subiscono anche tanti attacchi dalla natura stessa, però noi ci crediamo, vogliamo rimanere lì e crediamo che valga la pena farli scoprire anche agli altri. Tante storie, tanta volontà, la necessità di fare rete, di espandere la produzione, di incontrare nuovi mercati, e non sempre bastano energie e ottimismo, occorrono anche sostegni solidi, soprattutto nella fase iniziale di avventure imprenditoriali che scommettono sulla terra. Di qui la partnership tra Slow Food Italia e Garnel, che ad aprile a Parma, in occasione di Cibus Connect, hanno presentato il fondo di investimento AgriFood One, concepito per valorizzare l'innovazione e la sostenibilità nell'ambito del settore agroalimentare. Filippo Lascala è l'amministratore delegato di Garnel. In Italia ci sono dati che la Banca d'Italia ha mostrato al Senato, il governatore della Banca d'Italia lo scorso 7 aprile, oltre 1.300 miliardi di euro che giacciono sui conti correnti, sono capitali inagiti di risparmiatori italiani che non riescono più a entrare nel circuito virtuoso del sostegno all'impresa italiana. È venuto il momento di trasformare questi capitali inagiti in capitali pazienti, in capitali che investono, perché poi anche i risparmiatori lo capiscono sempre di più, in imprese vive, in imprese che contribuiscono alla crescita del nostro paese. E quali imprese se non quelle dell'agroalimentare rappresentano una delle eccellenze più conosciute al mondo e con maggiori prospettive di sviluppo. Ecco, come si sviluppa in concreto la vostra azione? Il nostro è un fondo di investimento di private equity, quindi che va a investire in imprese che non sono quotate, accompagna le imprese in un progetto di sviluppo. Noi guardiamo essenzialmente alla crescita, guardiamo soprattutto alle aziende che hanno bisogno non solo di un sostegno economico ma anche di competenze per poter non solo svilupparsi dimensionalmente ma andare anche all'estero, e quindi affianchiamo le imprese, interveniamo con del capitale ma anche con delle competenze, soprattutto rispettando i tempi che i cicli produttivi impongono. Noi investiamo nell'agroalimentare come gli agricoltori investono nella terra, rispettando i cicli delle stagioni, sapendo che bisogna avere pazienza, sapendo che bisogna qualche volta anche fronteggiare il cattivo tempo, ma poi il sole torna a splendere. E con questa logica, con questa grande anche partnership che abbiamo stretto con Slow Food, ci avviciniamo alle imprese che rappresentano non solo l'eccellenza, ma rappresentano, come dire, anche la tradizione, che in Italia è fortissima e che ha reso il food italiano, il made in Italy del settore agroalimentare, il più conosciuto a livello planetario. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.